La missione della Chiesa è impegnativa e quasi sovrumana, forse è addirittura indescrivibile. Paolo una volta chiama la Chiesa colonna e fondamento della verità. Da un lato ha ricevuto da Dio il compito di ammaestrare gli uomini in materia di fede e dall'altro ha il compito di vegliare e di impedire che vadano perse le verità di fede e che nella dottrina non si insinuino degli errori. La Chiesa, come severo custode del Sacro Graal, possiamo descriverla così? La sua citazione è tratta dalle lettere pastorali, la cui attribuzione a San Paolo è oggi negata da gran parte degli esegeti contemporanei, la qualcosa ci interessa poco in questa sede. Queste lettere si iscrivono comunque nella tradizione paolina e continuano a svilupparne il pensiero almeno nella linea della scuola paolina. Già nelle principali lettere di Paolo appare chiaramente il ruolo della Chiesa come portatrice vivente della verità di Cristo. A essa spetta il compito di consolidare questa verità, di svolgere, per così dire, la funzione di colonna che sorregge la verità, di viverla concretamente, di trasmetterla, di renderla accessibile e comprensibile, di consentire un suo pieno dispiegamento. Abbiamo pure sentito che in questa missione è introdotta alla verità dallo Spirito, così che fedeltà e progresso si contemperino. Il che è controverso. Lutero aveva obiettato che il magistero della Chiesa non era necessario, bastava la scrittura. Il magistero, secondo Lutero, è un atto di presunzione. Una comprensione adeguata non è preclusa a chi legge correttamente le scritture, di per sé comprensibili. Oggi vediamo sempre più chiaramente che un libro non è al riparo da ambiguità. Non mancano i passaggi che si prestano a molteplici interpretazioni. È un dato che fa parte dell'esperienza esistenziale della Chiesa, unico contesto in cui la parola possa vivere. Da questo punto di vista è necessaria un'istanza interpretativa che derivi la propria autorità da Dio e che sappia naturalmente di non potersi collocare al di sopra della parola di Dio, ma di essere al suo servizio e di doversi sottoporre al suo vaglio. Si è detto incidentalmente che sono già in atto tentativi di riconciliazione ecumenica in questa materia, perché da un lato anche nella Chiesa Cattolica si fa strada con grande nettezza la consapevolezza della valenza decisiva delle Sacre Scritture e dall'altro, anche tra i cristiani evangelici, si impone l'idea del radicamento della parola di Dio nel magistero autorevole della Chiesa deputata a interpretare la parola stessa. Da questi sviluppi sono scaturite nel corso del tempo delle conseguenze. Per poter interpretare la Scrittura in maniera vincolante deve aver ricevuto la promessa di essere sostenuta nel suo sforzo di dare un'interpretazione aderente allo Spirito di Dio che la guida, e così che, in ultima analisi, maturò la dottrina della infallibilità.